Abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme, a piedi, in silenzio. Poi lei, senza guardarmi, senza nemmeno alzare la testa da terra, ha detto che non ha senso tenere le cose che non ci riguardano più, che bisogna lasciare andare le cose del passato, per poter essere più leggeri. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Martedì 22 marzo, sono le 16:06, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. L'anno scorso ci ho fatto un programma intero. Ci sono passato in mezzo e ne sono uscito. Vivo. Ho misurato, ho soppesato per mesi il volume e le dimensioni che gli oggetti hanno nella nostra vita. In particolar modo nella mia, ovviamente. Ho capito che le cose rimangono piene di pezzi di vita, di frammenti di anni che abbiamo vissuto e delle persone con cui li abbiamo condivisi. Ho scoperto che gli oggetti raccontano delle storie. Raccontano la nostra storia. E lo sanno fare talmente bene che a volte succede che il loro racconto sia così preciso, sia così lacerante, che vorremmo non sentirlo più. Vorremmo fare stare zitto, perché tutte le volte che passiamo davanti a quel quadro, o che mangiamo in quel servizio di piatti, che prendiamo in mano quella racchetta da tennis o infiliamo quel maglione, ecco, tutte le volte sembra di tornare immediatamente là, indietro, con il corpo e con la mente. Questo è il potere e la maledizione delle cose. Quelle che portano con sé un pezzo di vita troppo pesante, che ci grava addosso come un cappotto di lana invernale. L'anno scorso mi sono liberato di 120 oggetti, uno al giorno, uno a puntata, come una goccia, lenta, inesorabile, che alleggeriva la mia zavorra. La bicicletta, la chitarra, il tavolo, le sedie, le scarpe, il divano, i libri, la televisione, l'automobile. E ogni giorno che mi liberavo di un piccolo fardello mi sentivo sempre meglio, sempre più leggero, più libero. Eppure è stato difficile, è stato molto difficile. L'ho esorcizzato con il racconto, però quando li spedivo o li consegnavo al nuovo proprietario c'era sempre un attimo in cui vacillavo. Era l'attimo in cui pensavo di essere un codardo, di volermi liberare di qualcosa che non volevo più vedere, di una storia che non volevo più sentire. Ora la mia vita è cambiata, è diversa. Quegli oggetti non mi appartengono più, eppure le loro storie non le ho dimenticate. Ecco, oggi mi piacerebbe sapere da voi qual è l'oggetto di cui vorreste liberarvi, ma non ci riuscite. Una cosa che vedete tutti i giorni, o anche solo qualche volta, una volta all'anno, ogni due, ogni tre. Però ogni volta la vedete e dite, prima o poi me ne libererò. Quel fratello che vi sembra di non riuscire più a sopportare e invece non riuscite a fare nulla se non accusare il colpo ogni volta che vi capita tra le mani, davanti agli occhi e tirare dritto. Ecco, qualsiasi sia la cosa che vorreste vendere, vorreste buttare, regalare o distruggere, ma che alla fine tenete sempre in un angolo della vostra casa e della vostra vita, io sono qui. Questo non ti serve, scusa, non ti serve. Ecco, anche questo. Questo non ti serve, scusa, non ti serve. 800240024 è il numero di telefono, che è verde ed è gratuito per chiamare in diretta. Invece non è gratuito per niente, ma chi se ne frega, il 349-238-6666 per mandare gli sms. Ci siamo capiti, no? Non è tanto difficile. Anche perché lo sapete, ce l'avete un oggetto, che magari ce ne avete più di uno. Oggi però me ne interessa uno in particolare. È uno di quegli oggetti che hanno un peso. Hanno un peso per un semplice fatto, perché raccontano una storia, che è la vostra storia. Quelli che hanno per caso sentito, sono passati dal programma dell'anno scorso, sanno esattamente quello di cui parlo. Anche se la storia che vi racconto oggi non riguarda me, riguarda la persona che mi sta vicino e gli oggetti di cui si è liberata. Non parlo però di oggetti che danno fastidio in casa. Vi faccio un esempio: per esempio Francesco mi ha scritto la PlayStation 2, Jacopo le mie Polo Fred Perry, Maurizio la panzetta, tutte cose di cui vorrebbero liberarsi e non riescono, Adla gli impegni coniugali, Giancarlo qualsiasi tipo di reperto informatico che ingombra casa mia, i topolini, lo stepper professionale. No, questi sono semplicemente cianfrusaglie di cui probabilmente vi potreste liberare molto più in fretta di quanto pensiate. Io parlo proprio di oggetti che raccontano una storia, che raccontano una storia e quella storia vi appartiene al punto che, anche se un po' vi fa male, non riuscite a liberarvene. Cristina, ad esempio. Una bambolina vestita di rosa regalatami da un grande amore a 18 anni. Oggi ne ho 46 e quella bambolina, nonostante sia malinconica, ha resistito a circa 10 traslochi. Luca, la madre della mia ex mi regalò, vista la mia difficoltà con l'università, un biocatalizzatore di energia positiva. Praticamente un cerchietto di plastica preso da un fattucchiere per la modica cifra di 100 euro. Completamente inutile. Lei credeva a tutte ste baggianate. Io però non ho mai avuto il coraggio di buttarlo. Che magari mi portava sfiga, non si sa mai. Questa è un po' la legge del non si sa mai, più che della storia che non riuscite a non ascoltare più. Francesca, un paio d'anni fa ci ho davvero provato. Io tenevo religiosamente nascosti in una scatola in fondo all'armadio gli orecchini con i teschi, la morte e la foglia di marijuana che usavo in terza liceo. Stava per nascere mia figlia, era davvero il caso di eliminare quelle tracce metal. Mio marito mi ha beccato e mi ha detto: ah no, non penserai di pulirti la coscienza, nostra figlia saprà tutto. Li ho rimessi nella scatola e oggi in fondo sono orgogliosa dei miei cimeli. Quando mia figlia mi darà della vecchia carampana potrò sempre vantare un passato contro. Passato contro è terribile, perché come dire che il presente invece è a favore, anche se non so di cosa. Luisa, eccola qua la storia. Le scarpe chiodate di Adora, nuove, messe solo nelle ultime due gare in pista a 20 anni. Con la scusa che sono nuove, che chissà, magari alla figlia dell'amica della cugina di mio marito potrebbero andare bene, le lascio lì, nell'ultimo ripiano della scarpiera. Penso sempre che se i miei figli non vedessero almeno quella traccia del mio passato di atleta, non crederebbero mai che le coppe impolverate nel garage le ha vinte la mamma una vita fa. 800240024 oppure 349-238-6666. Degli oggetti che raccontano una storia, anche piccola, ma che è la vostra, di cui non riuscite a liberarvi. 800240024. E adesso c'è un'altra storia, che non è piccola e non è la mia, ma sempre di liberarsene si parla. Aprire gli occhi la mattina credo sia una delle cose più belle del mondo. Quel momento preciso in cui ti sei appena svegliato e ancora non sai chi sei. Dura pochissimo, eh? È proprio un istante. È l'istante in cui apri gli occhi e non sai se sei tu, se sei un gatto, un topo, un elefante. Non manca più nessuno. Solo non si vedono i due leocorni. La scorsa settimana sono rimasto da solo qualche giorno, prima che Natalie tornasse a Milano. Incredibile, ci metto sempre un sacco di tempo ad abituarmi alle cose, ma ci impiego 5 minuti a disabituarmi. Tutte le volte che ho vissuto con un'altra persona abbiamo sempre trovato orari comuni, regole di vita e di convivenza uniformi, no? In modo da rendere il tutto più omogeneo e più civile. Eppure, se sto da solo un giorno, ma anche mezza giornata, io ritorno a fare quello che ho sempre fatto e probabilmente ad essere quello che sono. Uno zozzone che si alza tardi e vive come un troglodita. Sabato mattina, quando ho aperto gli occhi e ho guardato la sveglia, erano le 12:15. Credo che non dormivo così probabilmente da quando sto con Natalie. Mi sono alzato e sono andato verso la finestra. Ho aperto le persiane e guardato il cielo. Era grigio, come i palazzi di questa città. Sono andato in cucina e ho preso la teiera, l'ho riempita d'acqua e l'ho messa sul fuoco. Ho aperto il frigo sperando di trovarci qualcosa, ma sembrava un dente cariato. Ho pensato che dovevo fare la spesa prima che Natalie tornasse. Poi, aspettando che l'acqua bollisse, mi sono messo al computer. Sono andato sul profilo Facebook del programma e ci ho trovato qualche messaggio simpatico e qualcuno meno. Poi, visto che Tiziano aveva caricato il podcast della puntata di venerdì, visto che l'uomo con i tacchetti non è in ferie in questo periodo, sta bene e lavora alacremente. E quindi ho fatto una cosa che non faccio quasi mai. Ho cliccato su play, perché volevo riascoltare almeno l'inizio della puntata. Però credo che ci fosse un errore, perché invece della sigla, della mia, Io sono qui, è partita questa. Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. E quindi è andata così. Mi sono ascoltato tutta la puntata di Chiedo Asilo. Cappedrago sono simpatici quando li vedo qui. Si aggirano come due allampanati per la radio. Che non ho mai capito se uno è il braccio e l'altro la mente o viceversa. Mi piacciono i loro programmi. Magari non ci capisci niente, però quei 10 minuti lì te li stai ad ascoltare e te li godi. Mentre lo facevo mi sono fatto tè e biscotti. Meno male che nella scatola dei biscotti ce n'era ancora qualcuno. Erano un po' possi, ma si facevano mangiare. Io preferisco fare colazione al bar, però in fondo non è male neanche farla a casa. Potrei stare in boxer e maglietta a bere tè pucciando biscotti, devo dire che dà molte soddisfazioni. Quando è finito Chiedo Asilo mi sono come risvegliato dal torpore. Era l'una di un sabato mattina. Stavo mangiando biscotti vecchi in una casa che sembrava un campo di battaglia. E di lì a poco sarebbe tornata la mia ragazza. Calzini croccanti ricoprivano il pavimento ricoperto di gomitoli di polvere. I vetri delle finestre sembravano i vetri del mio box doccia. Il bagno pareva quello dell'Intercity Milano-Catanzaro a Catanzaro. Ho capito che forse avrei dovuto fare le pulizie e farle anche in fretta. E ovviamente, mentre lo pensavo, è suonato il campanello. Della casa Natalie non se n'è nemmeno accorta. Oppure se l'ha fatta è stata bravissima perché non ha battuto ciglio, ma era chiaro che aveva altro per la testa. È arrivata con la macchina carica di altra roba per la casa. Un tappeto, una piccola libreria, due scatoloni di libri, uno specchio, due cuscini, un mobiletto per il bagno, pentole e stoviglie in genere. Mi sto ricredendo sull'idea del trasloco soft. Pensavo che invece che farsi uno sforzo enorme una volta sola, portandosi tutto in blocco, fosse meglio dilazionarlo con calma in diversi mini traslochi più leggeri. Ecco, è una boiata, perché sembra che il trasloco non finisca mai. C'è sempre il tempo e la possibilità di portare in casa roba che prima non c'era. Mi sono infilato un paio di pantaloni e una felpa e sono sceso a darle una mano per scaricare e portare in casa la roba. Quando il bagagliaio si è svuotato, mi sono accorto che oltre a tutto quello che ho già elencato, c'era anche un altro oggetto. Un oggetto che in casa c'era già, ma che da qualche tempo era sparito. Un oggetto che era pieno e adesso, visto il peso, era vuoto. Era il baule. Quando l'ho afferrato però Natalie, che era già sulle scale, si è girata e mi ha urlato di no, di lasciarlo in macchina, che quello non lo voleva portare in casa. Ho chiuso il bagagliaio e sono tornato su. Mi sono fatto una doccia e quando sono uscito lei stava sistemando i libri sugli scaffali. Io ho raccolto qualche calzino, ho sistemato i cuscini del divano e lavato dei piatti rimasti lì dalle sere prime. E poi, verso le 3, quando la casa aveva ripreso delle sembianze accettabili, mi sono ritrovato nella tipica condizione delle 3 del sabato pomeriggio. Quella per cui ti si apre un vuoto davanti che hai il terrore di non riuscire a colmare. Perché se hai predisposto tutto bene per il weekend il problema non si pone. Ma se ti sei fatto sorprendere dal venerdì sera, il sabato, alle 3 del pomeriggio, l'horror vacui rischia di presentarsi in tutta la sua forza. La mattina no, perché ancora devi capire dove sei. Nemmeno il pranzo, perché la fame è più forte. Le 3 del pomeriggio sono il momento chiave. Se sei in coppia si può uscire da questo impasse affidandosi alla persona che ci sta vicino, con una domanda che sembra interessata, anzi sembra disinteressata, invece non lo è. E la domanda è: ti va di fare qualcosa questo sabato? E a questa domanda Natalie era prontissima. Sì, voglio andare al mercatino dell'antiquariato sui Navigli. Il mercatino costeggia una riva del Naviglio Grande. La gente ci arriva apposta perché è piuttosto famoso e pieno di cose belle. Io purtroppo non ho un gran gusto in fatto di antiquariato, quindi mi aggiro in questi luoghi con la consapevolezza di un bradipo e la noia di un bambino di 3 anni. Non saprei proprio che cosa cercare, tantomeno cosa comprare. Sabato però io e Natalie questo problema non ce l'avevamo, perché non eravamo lì per comprare, eravamo lì per vendere. Lei aveva deciso di liberarsi del baule. Che poi direi che vendere non è un termine appropriato. Lei lo voleva svendere. Voleva proprio darlo via. L'ho capito quando arrivati al mercatino lei si è fermata alla prima bancarella, quella all'inizio della strada, quella a cui tutti si fermano ma nessuno compra mai perché è convinto che più avanti si faranno affari migliori. Lei ha appoggiato il baule sul bancone e ha chiesto: quanto mi dà per questo? Io ero un paio di passi lontano da lei e mentre la osservavo che parlava con il tizio mi rendevo conto che probabilmente io non avrei mai saputo a chi apparteneva la roba che lei aveva tenuto lì dentro. Non avrei mai saputo che fine avesse fatto e per quale motivo lei ci tenesse tanto a quella roba. Ma in fondo anche per quale motivo lei volesse liberarsene, poi così velocemente. Ho visto che prendeva dei soldi, salutava e si allontanava, mentre l'antiquario caricava il baule sul furgone. Mi ha raggiunto e siamo tornati verso casa. Non aveva voglia di parlare, questo era palese. Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi, in silenzio. Poi lei, senza guardarmi, senza nemmeno alzare la testa da terra, ha detto che non ha senso tenere le cose che non ci riguardano più, che bisogna lasciare andare le cose del passato per poter essere più leggeri. Io per un attimo ho pensato che avesse risentito una puntata di Vendo Tutto, ma mi sono ricordato che mi aveva detto di non averlo mai ascoltato. Quindi sono stato zitto e ho continuato a camminare. Quanto è pesante la vostra vita? Immaginate per un attimo di avere uno zaino sulle spalle. Ora dovete riempirlo con tutte le cose che avete nella vita. Cominciate da quelle piccole, gli oggetti sugli scaffali, nei cassetti, i gingilli, oggetti da collezione. Sentite come aumenta il peso. E ora le cose più grandi. Il divano, il letto, il tavolo da cucina. Infilate tutto dentro, la macchina, pigiatela bene. La casa, tutto dentro quello zaino, infilate tutto bene dentro. 349-238-6666. Non mi riesco a liberare del mio cappello da alpino, anche se con la montagna c'entravo poco, visto che sono nato e sempre vissuto al mare, e neppure sono un patito delle forze armate. Eppure, nonostante i disagi patiti allora, è ancora lì a testimoniare l'orgoglio di averlo indossato. Non riuscirei mai a buttarlo. Angelo, la mia Vespa 50 Special, rossa, che mi ricorda i miei 15 anni e le limonate sulla sella lunga. Ora è restaurata da Certosino ed è al centro del salotto di casa mia. Claudio, poi Ale da Senigallia, due rogatori, due gav, tre mute, umide di varia fattura e spessore, due paia di pinne, calzari, guanti, coltello, chiusi in un armadio in attesa del nulla. Ale da Senigallia. Continuano ad arrivare e sono statisticamente i messaggi, il numero maggiore di messaggi. I messaggi che riguardano le cose che non si riescono a buttare perché appartengono ad una storia passata, ad un amore che è finito, che sono stati regalati da una fidanzata o da una moglie. Da qualche tempo, da poco direi, è uscito un libro che io e Tiziano avevamo intercettato lo scorso anno perché era uscito negli Stati Uniti qualche mese prima che cominciasse il programma. Il libro è un libro pubblicato in Italia da Rizzoli, è un libro strano, per fattura, per dimensioni e soprattutto per contenuto. Si chiama Importanti oggetti personali e memorabilia, dalla collezione di Leonor Doolan e Harold Morris, compresi libri, abiti e gioielli. Sabato 14 febbraio 2009, New York. Questo libro non è altro che il catalogo di un'asta. È il catalogo di un'asta con tanto di fotografie, di numero del lotto, di nome dell'oggetto e breve descrizione dell'oggetto, compresa quindi anche di dati relativi al peso, alle dimensioni e alla base d'asta, la partenza della base d'asta. Solo che la collezione di cui si parla sono gli oggetti appartenuti a questa coppia, che erano appunto Leonor e Harold, che sono stati insieme per 4 anni e alla fine della loro storia hanno deciso di mettere alla statuto un giorno qualunque, era il San Valentino del 2009. È un libro strano, ripeto, perché non è un romanzo, però è un bellissimo oggetto che vi consiglio di andare a cercare. Se voi lo sfogliate è proprio pieno di foto e di oggetti. Che so io, stampata di un'email, lotto 1060, pigiama, lotto 1061, lotto 1062, biglietto manoscritto, biglietto scritto su un post-it datato 10 maggio 2003. Si legge: Leonor, mi dispiace che abbiamo litigato ieri sera. Ti telefono dall'hotel. Bacior, Harold. 3 pollici per 3, non illustrato in catalogo, valore d'asta tra i 10 e i 20 dollari. E ancora lotto 1169, invito ad una festa, lotto 1170, vaso blu, lotto 1171, copia di gemelli e biglietto. Ripeto, importanti oggetti personali e memorabilia della collezione di Leonor Doolan e Harold Morris, compresi libri, abiti e gioielli. Sembra una storia vera. Forse non lo è, o forse sì. Come al solito mi pare che questa cosa sia meno importante. Abbiamo tempo per prendere una telefonata al volo, vero? Dai, prima della borsa. Andiamo da Roberta da Roma. Pronto, Roberta? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Bene, grazie. Tu stai vendendo che cosa esattamente, Roberta? Io vorrei tanto vendere una casa. Che è casa tua? Sì, è casa mia, casa nostra. La nostra ex casa, che siamo stati quasi 5 anni. E ce la farai oppure no? Nel senso che stai cercando di venderla, hai già trovato un agente immobiliare oppure fai solo fatica? Sì, guarda, è stato il primo desiderio dopo che ci siamo lasciati. Tipo una settimana dopo avevo già contattato tutte le persone. Però stranamente le cose che sono dentro mi appartengono ancora di più dell'involucro. Ma cosa pensi di fare delle cose che ci sono dentro? Un po' la dovete portare via, il resto... Il resto non so, credo di dargli un po' in beneficenza. Senti, quanto vale la casa? Termini affettivi, tanto. No, in termini affettivi lo immagino, io però parlavo proprio in termini economici. Guarda, sui 280-300. Dove si trova? A Roma. In che zona di Roma? Diciamo vicino Roma Est. Senti, quanto è durata la storia? In tutto 13 anni. Come ti senti adesso, Roberta? Guarda, leggera. Grazie mille, Roberta. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Ora la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo sopra i tetti di una città. Io come al solito non so esattamente che cosa raccontano le foto, perché la didascalia non mi arriva e quindi lo so solo insieme a voi dove siamo, quindi provo solo ad immaginare, perché è una città con i tetti piuttosto bassi, con gli edifici, perdonatemi, piuttosto bassi, nel senso che ci sono edifici di massimo 5-6 piani. È una città all'alba probabilmente e che è coperta da un leggero strato di neve. Potrebbe essere una città del sud, non del sud Italia, direi, perché ci sono delle montagne vicine, ma forse si potrebbe essere Catania, forse. Potrebbe essere una città del sud con la neve a sorpresa sui tetti. Francesca Cavallini, 35 anni. Una trasferta di lavoro mi ha portata in un Atene con la neve in marzo. Per qualche giorno, purtroppo o per fortuna, io sono qui. Vabbè, però io credo che Atene e Catania siano più o meno sullo stesso parallelo. Così, detto... tipo 32, non lo so, 32 o 33 forse, sì, 32esimo o 33esimo. Le foto potete vederle sul sito di Radio24, alla pagina Io sono qui, e potete mandarle invece la mail. Io sono qui, @radio24.it, se siete a una trasferta di lavoro particolare come è il caso di Francesco, oppure se siete in casa e volete fare una foto del vostro divano, della vostra scrivania o del vostro gatto. Tutte le cose di cui non ci si riesce a liberare. Ho in box ancora la mia moto, 125 elaborata, è dell'87, io ho quasi 40 anni adesso, lei è ancora lì, è 5 anni che dico che la devo demolire, ma niente. Ciao Mazzi da Lecce. Ancora la mia moto, non riesco a liberarmi della mia motocicletta, una Ducati Monster nera con dei particolari rossi, parcheggiata lì fuori casa, bella e cattiva come una donna seducente. Non la uso più da 4 anni, ma non riesco a darla via. Conservo le agendine diarie della mia adolescenza. La foto con Kurt Cobain, scattata a Marino un mese prima che si suicidasse, Alessandro a Civitavecchia. Wow, questa altro che buttarla via, questa la rivendi all'asta e qualche soldo ce lo fai. Il Corriere della Sera dell'11 settembre 2011. No, probabilmente è il Corriere della Sera del 12 settembre 2001, Armando, correggimi se mi sbaglio. I primi occhiali da vista di Valentino, dorati e brutti con quelle diottrie, non servivano più neanche come occhiali di riserva. Poi ho visto cose meravigliose e terribili dietro quelle lenti e quindi non li butto via. Stefano, andiamo al telefono, dai, andiamo a sentire Tiziana da Piacenza. Pronto Tiziana? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, tu che cosa hai, dei 45 giri, giusto? No, un 45 giri. Ho un solo 45 giri, che è ancora lì e che ogni tanto mi ritrovo quando faccio pulizia. È il 45 giri che mi ha regalato circa 40 anni fa, sì, il mio ragazzo, che poi mi ha messo incinta e mi ha piantata. Già, allora, scusami, già la locuzione mi ha messo incinta faceva capire che poi aveva fatto una brutta fine lui. Seguito, sì, si capiva, si percepiva. Capire. Senti, che 45 giri è? Che 45 giri è? Era un disco, dunque si chiamava Tan los poetas andaluces de ahora. Mamma. Era un disco bellissimo, cercalo, è veramente una cosa bellissima, romantica al massimo. Ma 45 tosta. Giri è quello piccolo, giusto? Quello che gira quello piccolo, più quello veloce, piccolo col buco grande. Ok, ma cos'era? Fammi capire, una roba tipo in Tillimani? No, non proprio, però una cosa impegnata, insomma, una cosa seria. Perché eravamo seri 40 anni fa noi, Tiziana, giusto? Anni 70. Eravamo duri e cattivi, e poi scappavamo dopo che le mettevamo incinta. Esatto. E niente, siccome nonostante io appunto l'abbia odiato, puoi immaginare quanto. Certo. E il mio odio persista tuttora, però sto disco non riesco a buttarlo via. Se a volte mi torna in mano e dico lo butto, no, non ci riesco. Senti, quanti anni ha il figlio o la figlia? È nata nel 73. Ah, quindi è bella grandina. Ed è una patita degli intillimani o di quella roba lì? No, no, li odia, odia. È contraria al mio passato. E, dunque, mi sono comprata adesso un bellissimo ritratto di Che Guevara da mettere in camera, ma ho detto, mamma, orrore! Tiziana, mi piace perché tu non molli, tieni duro, nonostante tutto tieni duro. Grazie mille, ciao e buona giornata. Ciao, ciao, alla prossima. Ho un box doppio occupato da un'auto tripla. La Mercedes di mio padre, bianco latte con interni bordeaux e finta radica dell'87, ammaccata da me da neopatentato. L'utilità rinnova di concessionaria continua a stare in strada. Andiamo da Pavia, da Antonio. Pronto Antonio? Pronto, ciao. Ciao, come Matteo. Stai? Bene, bene. Senti, tu hai un giubbotto regalato da una ex 25 anni fa. Sì, guarda, facevo i conti adesso, sono 23 anni esatti, avevo 17 anni e mi ha regalato, posso dire, una marca, sì. Come no, certo. È un tipo una felpa della Best Company, presente? Ma, che si ma come no? Ma certo, ecco. Certo. Me l'ha regalata la mamma di questa mia ragazza. Sì. E sta nell'armadio, ha fatto tipo 12 traslochi. Tu tra l'altro adesso hai una fidanzata, che una moglie. No, una moglie. Che non la vive molto bene. No, perché quando facciamo i traslochi, siccome rimane sempre sotto, sì, la rivede e ogni volta si ricorda di questa persona. Rimane sotto in tutti i sensi. Grazie mille Antonio, ciao, buona ciao, giornata. Ciao, grazie. Ciao. Stiamo sempre con un Antonio e andiamo a Bologna. Pronto Antonio? Ciao, ciao Matteo. Ciao, ciao. Grazie per essere qui Antonio. Senti, tu hai un oggetto particolare in cantina di cui non riesci a liberarti. Sì, sì, sì, io sono originario del sud, quindi dopo il diploma ho fatto mille mestieri per poter vivere, per mettere a posto, per mettere da parte un po' di soldi. Ho fatto il muratore, un mestiere durissimo, tutti i giorni pregavo il Dio che fosse l'ultimo per me, e ho una cazzuola con me, perché poi ho incontrato una ragazza di Bologna, ci siamo sposati e sono venuto a vivere a Bologna, però la casa che abbiamo comprato ormai 15 anni fa era vecchiotta, quindi io l'ho messa a posto con la mia cazzuola. Con quella cazzuola. Antonio, ricordiamo per chi non lo sapesse come è fatta una cazzuola. È una piastra di ferro con la punta rotonda, un manico di manico in legno, che serve a prendere la calce e attaccare i mattoni per spargere la calce sul mattone, giusto? Sì. Che cosa fai adesso Antonio? Sono middle manager in un'azienda multinazionale di Bologna. Ah, quindi è proprio una vita fa. Sì, avevo 19 anni, mi sono dato tanto da fare qui a Bologna, mi piaceva il lavoro, lavoravo in un'azienda metalmeccanica, quindi sono cresciuto tanto, ho investito su di me, mi sono laureato, anzi quest'anno, tra qualche mese mi laureo, ho imparato... Ma quanti anni hai Antonio, scusami? 38. E di dove sei originario, di dove? Casal di Principe. Sei di Casal di Principe, quindi cioè il tuo è, sembra una storia americana la tua più che una storia italiana. Parti con la cazzuola da Casal di Principe e arrivi a Bologna nella... Purtroppo sì, e sono partito solo con la moto, senza neanche i bagagli, senza niente, perché non avevo niente. Che moto era Antonio? XTZ750, Super Tenere. Grandissimo, da Casal di Principe diretto a Bologna. Bellissimo, una moto stupenda, guarda. Senti, ricordami solo quanti anni hai fatto il muratore? L'ho fatto 2 anni a Bologna, l'ho dovuto fare anche un anno qui, 2 anni a Caserta e un anno a Bologna, perché il mio suocero poi faceva il muratore, quindi la prima cosa che ho dovuto fare era il muratore. Io tutti i giorni pregavo che Dio mi facesse o morire o smettere di lavorare. Addirittura, senti, però poi alla fine sta cazzola ce l'hai e la casa te la sei sistemata tu, quindi di fatto è servito. Sì, sì, sì, mi è servita. Ancora oggi ogni tanto la prendo per mettere a posto qualcosa, devo dire la verità. Antonio, ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona giornata. Grazie a te. Ciao, ciao, alla prossima, grazie. Il burro di cacao che mi misi prima del primo bacio con l'amore della mia vita, anno 2001 ad Arcore. La mia borsa con il vestiario da calcio, le ginocchia rotte, non giocherò mai più, ma non riesco a buttarle. Chissà come mai, ma nella mia fantasia mi immagino proprio la borsa piena di roba da calcio, magari ancora sporca, forse perché appunto anche nel baule di Natalì c'era esattamente quella roba lì. Prima di salutarvi, visto che vi ho parlato di questo libro che è il catalogo di Un'asta, vorrei leggervi proprio un pezzo. Vi ripeto, non è un romanzo, quindi vi leggo proprio un breve racconto che è dell'otto 1085. Un taccuino. Taccuino da reporter per appunti giallo di Leonor Dulan. Dalla nota datata 23 giugno 2003 si legge: stanotte ho sognato. Cercavo il nome fantasma nell'elenco telefonico italiano. Poi c'è un vampiro. C'è una donna e io sono in fila per essere uccisa e trasformata in vampiro. Ho paura. Non voglio che succeda. Vedo l'uomo del vaporetto e ci scambiamo un'occhiata. Focaccia, grissini, piadina romagnola, pan di ramerino, ciabatta, zuccotto agli amaretti, francobolli. In fondo all'elenco sul taccuino, nella grafia di Harold Morris, c'è scritto: dove vuole andare a cena stasera Leonor? Ci sarà da fidarsi del concierge? Perché Leonor ordina sempre le insalate senza condimento? Come si dice Thousand Island in italiano? Dimensioni 7,5 cm x 4, base d'asta tra i 20 e i 25 dollari. Ve lo ripeto, importanti oggetti personali e memorabilia della collezione di Leonor Doolan e Harold Morris, compresi libri, abiti e gioielli. È edito in Italia da Rizzoli e racconta di una storia d'amore che è finita, raccontata attraverso gli oggetti che sono stati venduti, una storia che forse qualcuno di voi suonerà familiare. Paolo mi scrive a proposito donne e moto, ragazzi, donne e moto, il casco per guidare una moto che non c'è più, ho venduto la moto, l'abbigliamento, gli accessori, ma il casco no, venderlo sarebbe come sradicare definitivamente una passione. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete? Che c'è? Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.